Messaggio dalla luna. Qui non succede niente. E tu mi mandi foto ritoccate di tutta quella gente. È una generazione che non scendo da qui. Non si incontra nessuno in giro e poi non piove mai. Ma voglio dirti che non è naturale spiarmi dentro a quel cannocchiale. Molla l'ossessione, prendi l'occasione e sali da me. Prendi l'ascensore, vieni da me. Ancora un ballo bello e poi ti vengo a prendere giù. Mi hai dato qualche cosa che certo non scordo più. Come vanno le cose laggiù, è tutto fumo negli occhi. Sì o no, sarà quello che vuoi. Credi a quello che vuoi, basterà che mi tocchi. Sei al posto d'onore e non farmi dire di più. Qui non vedo nessuno, nessuno che mi piace, nemmeno per un gioco veloce, una gioia fugace. E penso che di nuovo devo accontentarmi di te. Tesoro, se la torta nuziale in un momento speciale è finita giù per le scale, fra le mie braccia come una faccia, la vita si può truccare. Messaggio dalla luna, non c'è nemmeno il vento.